Guardo accesa una TV che spiega come il mare blu m'annega, che nel torbido si annega, poi uno slogan che ti frega, parti in Africa con schiavitù. Non c'è intesa e la guerra pesa, quanta gente in piazza è scesa. Poi c'è un'altra mezza stesa sul divano in dopo spesa, da domani non usciamo più. Ma così è il mondo, così la pace in strada marcia, ma un'auto in retromarcia fa una guerra ai sensi. Sì, è un posto così, di prendersi e lasciarsi, monumenti o pezzi sparsi, siamo tutti qui. Barca a vela e lume di candela, sanno di natura o mela, ma c'è l'uomo medio che ogni sera nella Jeep dove senti, non ti dico stiamo attenti, ma c'è una rima in sentimenti e forse c'è un motivo, non so più che cosa scrivo, forse proprio quel motivo. See you.